sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Questa è la mia storia e io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Erano momenti stupendi, restare in silenzio a guardarci negli occhi, sdraiati sugli asciugamani uno accanto all'altro. Che peccato, non eravamo in grado di esprimere chiaramente quanto di bello si provava tra di noi. Sono Agostino, chiamato Carlo in famiglia dagli amici, e vivo a Genova, dove sono nato 68 anni fa. Sono sposato da 41 anni ed ho due figli di cui sono fiero. Sono in pensione dopo aver lavorato nel settore siderurgico. Il mio hobby è l'agricoltura e le mie passioni sono la fotografia, la storia e le lettere. Credo che in pochi casi come in questo, le prime righe di quello che definiamo l'intro, che vi ho letto in apertura, rappresentano perfettamente non solo la storia di Agostino, ma anche quello che racconta, cioè l'adolescenza. Che peccato, dice, non eravamo in grado di esprimere chiaramente quanto di bello si provava tra di noi. Buongiorno a tutti, sono le 16:09 in punto, questa è Radio 24, io sono Matteo Caccia, il programma ovviamente è Voi siete qui. Ogni giorno raccontiamo una storia e oggi raccontiamo una storia particolare, che è una di quelle storie come ne sono arrivate in questi anni di programma, basata un po' sul niente, o meglio, basato su un periodo della vita in cui sembra accadere niente e sembra invece accadere tutto, che è l'adolescenza. 349-238-6666. Partiamo, io partirei proprio dal titolo che Agostino ha dato alla sua storia, l'incantesimo dell'adolescenza. Anche se sono passati tanti anni da quel periodo, se voi ricordate qual è stato l'incantesimo della vostra adolescenza, della vostra adolescenza, una cosa che è accaduta e che ricordate in maniera particolare, una cosa che non è accaduta e che ricordate quando avevate 14, 15, 16 anni. 349-238-6666 oppure i profili Facebook Voi siete qui Radio 24 o Twitter Voi siete qui R24 di questo programma, l'incantesimo della vostra adolescenza, perché è vero che spesso nell'adolescenza succede poco e quello che succede succede più qui nella testa o qui nella pancia, insomma tutte cose che ci immaginiamo, che supponiamo, ma che spesso non abbiamo il coraggio di esprimere o forse non abbiamo proprio le parole per farlo, no? non c'è una maturità adatta per farlo. Poi adesso sono sicuro che le mamme con degli adolescenti in automobile in questo momento saranno pronte a smentirmi, magari gli adolescenti stessi che mi dicono noi siamo in grado di esprimere concetti ben più alti di quelli che immagini, e mi auguro sia così. Eppure la sensazione è che quel periodo sia un periodo veramente legato ad un incantesimo. Eravamo a luglio 1961. Io avevo 15 anni e quella estate il trio Los Hermanos Rigual, proveniente dal Messico, aveva raggiunto un successo incredibile col brano Quando calienta il sol. Una ritmica melodia basata su chitarre a ritmo e voci sudamericane. Io, vivendo a Genova, mi recavo spesso al mare di mattina con un gruppo di amici e di amiche. Percorrendo un breve tratto di strada che portava al borgo marino di Sturla, un quartiere sul mare della città. Andavamo alla spiaggia libera per risparmiare, portando pinne, occhiali e gli asciugamani. Strada facendo, compravamo anche la tipica focaccia genovese per alleviare l'appetito che ci assaliva inesorabile verso le 11 della mattina. Ogni volta si tornava poi a casa verso le 13 e impiegavamo poco tempo, perché la spiaggia non era molto lontana. Ero un ragazzo che avevo parecchie ambizioni, cercavo di riuscire, studiavo, ecco, avevo, cioè, la mia generazione era una generazione non certo come oggi, avevamo ideali forti anche, l'Italia era in pieno boom, quindi c'erano molte prospettive. Eravamo un bel gruppo di amici, tutti quasi coetanei. Ho i ricordi nitidi come fosse trascorso pochissimo tempo da quei giorni. Ricordo Giorgio con le sorelle Gabriella e Gianna, Giuseppe di qualche anno più grande, Luisa, sempre molto allegra, e infine lei, Miriam. Aveva la mia stessa età e mi aveva rapito il cuore di un quindicenne romantico che si avvicinava alla vita con molta timidezza. Come la ricordo bene, alta per la sua età, dai lunghi capelli neri, gli occhi con una leggera tonalità di azzurro. Il corpo affusolato e armonioso per il nuoto che praticava come sport. Io non ero un buon nuotatore e rimanevo a riva muovendomi goffamente con le pinne, mentre lei pareva un pesce per come si muoveva nell'acqua. Lei aveva capito del mio innamoramento e ricambiava anche lei con molta timidezza. Erano sguardi intensi quando si sdraiava accanto a me tornando dal mare, mentre io le leggevo le poesie che ogni giorno scrivevo per lei. Già, le poesie. Una mia passione che mi accompagnava da tempo, come alcune letture non certo facili che avevo scoperto per caso e mi stavano interessando non poco. Gli altri amici avevano capito cosa era sbocciato tra noi due e si mostravano disinteressati per non metterci in imbarazzo. Erano momenti stupendi, restare in silenzio a guardarci negli occhi, sdraiati sugli asciugamani, uno accanto all'altra. Che peccato, non eravamo in grado di esprimere chiaramente quanto di bello si provava tra di noi. Tutto durò circa un mese. Poi io, come ogni anno, andai in campagna dai nonni e mi rimase il ricordo di quella prima profonda tenerezza, insieme ad un piccolo quaderno, zeppo di atmosfere. Questa Miriam era una ragazzina della mia età, eravamo coetanei, molto longilinea, una bruna, molto, molto riservata, però molto concreta, e grande nuotatrice. Mi ricordo che io mi trovavo un po' in difficoltà perché lei nuotava e mi lasciava sulla riva, però era molto bello quando arrivava e si sdraiava vicino a me, ecco. Col tempo rimase un lontano piacevole ricordo, quasi la dimenticai. Passarono diversi anni senza che ci incontrassimo, nonostante si abitasse vicini. Poi, dopo circa 10 anni, la riconobbi un giorno in un grande supermercato di Genova, dove era addetta alle vendite della profumeria. Era alta, sempre molto bella, ma ai miei occhi aveva perso qualche cosa, non era più la stessa. Sorridemmo entrambi, stupiti di essersi rivisti dopo tanto tempo. L'incantesimo dell'adolescenza era finito. Quando calienta il sol, aquí en la playa, siento tu cuerpo vibrar cerca de mí. Es tu palpitar, es tu cara, es tu pelo, son tus besos, me estremezco. Agostino della storia sembra il babbo dell'Agostino della storia, ovviamente, nella foto che ci ha mandato Agostino, e l'ho ripetuto per 3 volte il suo nome nell'arco di 10 secondi, sul sito di Radio 24, la nostra pagina, Voi siete qui, ma è normale evidentemente perché questa è una foto recente che lo ritrae in una giornata, direi estiva, con dei fiori alle sue spalle, gli occhiali da sole e uno sguardo non troppo contento del fatto che gli stiano facendo una foto. Ciao Agostino, buongiorno. Ciao Matteo. Come stai? Tutto bene, complimenti per la trasmissione. Ti ringrazio molto. Dove ti trovi Agostino in questo momento? Sono a Genova in casa, mi sono organizzato. Per la telefonata. Per la telefonata che mi ha un po' emozionato. Anche. Senti, a proposito di emozione, che sensazione ti ha fatto riascoltare quella canzone dopo tutto questo tempo? Ebbene, in effetti un certo tremore alle gambe. Senti, sono passati, erano gli anni 60, quindi sono passati 50 anni. 50 anni. 50 sì, anni. Sì. Che cosa è successo nel frattempo? Tu ti sei laureato? Mi sono laureato, poi mi sono sposato felicemente con mia moglie che conosce la storia e ci fa delle ricche risate. apprezza questo mio modo di ragionare, di pensare. No, e poi soprattutto immagino che da quanto siete sposati tu e tua moglie? 41 anni. 41, si chiama tua moglie? Si chiama Gianna. Sì. Immagino che Gianna conosca ormai l'Agostino anche più uomo, quello che ha affrontato le difficoltà, eccetera eccetera, e probabilmente sentire questo pezzo di Agostino così tenero che non ha quasi il coraggio di parlare in qualche modo. Io direi, Matteo, che i più contenti sono i miei figli. Io ho maschio e femmina, la femmina ha 40 anni, il figlio 32, e sono felicissimi di questa mia il mio esploit radiofonico con Matteo. Da quanto ascolti il programma, per capire, insomma, quando hai deciso, quando hai deciso di scrivere? Sì, io ho scoperto Radio 24 3-4 anni fa, per caso, penso a te, e praticamente ho inchiodato sia in macchina che in casa la sintonizzazione su Radio 24. Ok, bene. Sì, sì, una bella radio. E a un certo punto hai deciso di scriverci una storia. Esattamente, sì, ho deciso, seguivo la tua trasmissione, avevi detto una volta, avevi invitato gli ascoltatori a scrivere e mi sono buttato. Sì. E perché proprio questo episodio, Agostino? Ma mi è rimasto così, è stato il primo forse che mi è venuto in mente e forse il più leggero, più... Quello sicuro, infatti c'è decisamente una bellissima aria. Poi tra l'altro guarda, in questo giorno che è uno dei primi giorni d'inverno, sì, raccontare una storia così estiva e così leggera mi fa moltissimo piacere. Ma torniamo su un punto importante, sì, le poesie, Agostino. Sì, io sono sempre stato appassionato e quindi con questa ragazza, invece di parlarle, di esprimerle quello che pensavo, le leggevo le poesie. E lei come reagiva? E lei reagiva stando in silenzio, guardandomi negli occhi e ascoltandole. Era un rapporto di grandissimi silenzi, mi sembra di capire. Direi proprio di sì, direi proprio di sì. Era un po' una donna angelicata e io ero un cavaliere angelicato. Ecco. Che cosa hai fatto nella vita, Agostino? E io poi ho lavorato per anni nel campo dell'acciaio, delle acciaierie, sì. E ancora adesso mi diverto, faccio il consulente. Quindi proprio tutt'altra, insomma, io stavo per dire, beh, avrà fatto il professore Agostino, invece no, acciaio. Eh sì, acciaio, cose molto concrete, fumose, calde, terribilmente calde. Agostino, i tuoi figli hanno dei figli, anche loro. Sì, io adesso ho 4 nipotini, il più grande 4 anni e mezzo. È la più piccola, 7 mesi, sì. E fai il nonno, una cosa che ti piace oppure... Sì, sono contento, ho 2 figli molto, devo dire, molto in gamba, sì, sì. Senti, ce l'hai... Molto, molto più bravi di me, diciamo, nella vita. Hai scritto qualche poesia di recente o hai proprio smesso? Ho scritto un romanzo sulla prima crociata e con dei inserimenti di cose inventate, però lo tengo nel cassetto. Bravo, senti, prima di salutarti dimmi il titolo. Il fuoco di Costantinopoli. Voilà, Agostino, in bocca al lupo per tutto e vabbè, buone feste ovviamente. Tanti auguri, grazie. A presto. Matteo, ciao, auguri, grazie. A tutti. Ciao, ciao. Quando ho letto la storia di Agostino, io ho pensato che ovviamente ho vissuto degli attimi identici ai suoi, anche se erano molti anni dopo. Ero ragazzino ed ero al mare con una ragazzina con cui non è successo mai nulla. Però la dolcezza e la gioia di quegli anni sono una specie di marchio indelebile. Lei si chiamava Ada, aveva 15, credo forse 14 anni. Io avevo 14 anni, questo è sicuro. E una sera la convinsi ad uscire in barca con me. Io non ero bravissimo, in più ero molto agitato. Quindi a un certo punto la barca si ribaltò e noi finimmo in acqua. Più o meno andò così. E a un certo punto scuffiamo. Non so perché, non lo so mai. Non capisco con esattezza qual è l'errore che faccio, però a un certo punto, quando sta andando tutto bene, faccio sempre qualcosa di sbagliato. Sempre. E in un attimo finiamo in acqua. La barca si inclina, noi rimaniamo in equilibrio per qualche secondo, poi si rovescia e noi con lei. L'acqua del mare è più calda dell'aria ed è anche più buia. Io ho una cima attorcigliata intorno al polso e non riesco ad uscire a prendere aria. Non ho preso fiato prima di scuffiare e ora ho la sensazione che stia per finire. Scrollo il polso e il braccio si libera. Sposto con una mano la barca che è proprio sopra la testa e sono nell'aria. Respiro con la bocca spalancata, come se potessi aprire anche i polmoni. Faccio 2-3 respiri e poi mi accorgo che Ada non c'è. La barca è completamente capovolta e lo scafo è come un guscio appoggiato sul mare. Faccio un giro intorno, ma niente, lei non c'è. La chiamo allora. «Sono qui», mi dice. La voce è attutita, come se parlasse con le mani a conca davanti alla bocca. Mi guardo in giro. Niente, non c'è. Un lampo illumina la spiaggia, là in fondo. Io sono qui sotto. C'è sempre una bolla d'aria sotto la barca quando lo scafo è ribaltato. Lo so perché ci sono rimasto una volta lì sotto. E lei è lì. Ci vado. Le nostre teste sono vicine e ci stanno appena. L'acqua arriva sotto il mento. Ogni tanto qualche onda ci solleva e noi sbattiamo la testa sul fondo della barca rovesciata. Inizia a piovere. Il temporale è proprio sopra di noi. Stringo gli occhi come per chiudermi le orecchie e quando li riapro ha iniziato a piovere decisamente forte. L'acqua rimbalza sullo scafo sopra le nostre teste, sembra un tamburello giocattolo di quelli che si regalano ai bambini. Inizia leggera, ma in un attimo diventa una cascata. Ada rabbrividisce più per la sensazione che per altro, visto che qua sotto siamo riparati. Rimaniamo qua, che siamo al sicuro, le dico. Ok, mi risponde lei. Il rumore della pioggia sullo scafo è talmente forte che per sentirci dobbiamo urlare. Poi qualcosa mi afferra per la maglia e mi trascina sott'acqua. Bevo, perché non me l'aspettavo. Voglio tornare fuori, ma non riesco. Un altro lampo illumina il mare e di fronte a me c'è Ada, che mi stringe la maglietta con una mano e mi tiene sotto insieme a lei. In un attimo è di nuovo buio. Non posso giurarlo, ma mi sembrava che stesse ridendo. Mi libero, torno nella bolla sotto la barca. Ora ha smesso di piovere e c'è meno rumore. Riemerge anche lei e ora sì, sta ridendo. Respiriamo forte tutti e due per riprendere fiato. La pioggia canticchia sopra di noi, la barca ci protegge dai tuoni e da quello che c'è fuori. Ada ha i capelli appiccicati alle tempie e un ciuffo le riga la fronte. La bocca è aperta a ridere e a respirare. Una goccia le cade dal naso. Guardo quella goccia che sta per staccarsi e in un attimo ho la sensazione precisa, netta, che questo sia il momento più felice della mia vita. È un sentore leggero, come un gorgoglio allo stomaco, quando l'appetito ti prende all'improvviso e ti accorgi che hai fame. Non ne sono sicuro, ma mi sembra che vissuta qui sotto la mia vita sia più bella. E vorrei poter fare qualcosa, ma non so cosa né perché. Forse vorrei solo avere la conferma che sia così, tutto qui. E allora rimango immobile a guardare la goccia che si stacca dalla punta del naso e cade in acqua. Cade talmente forte che sento il rumore che fa. Fuori ha smesso di piovere. E alla fine, dalla storia di Agostino, ho capito che primo, le estati della nostra vita sono le estati giovani. Secondo, tutti prima o poi hanno avuto una Miriam nella loro vita. Terzo, incontrare le ragazze che ci hanno fatto battere il cuore da adulti rimane sempre una cosa buona. Quattro, la voglia di estate ormai è già ufficialmente incominciata. E quinto, che belle che erano le ragazze da ragazzi. Ma lei non mi guardava neanche. Ed io facevo finta di niente. Ingollavo peroni e iniziavo ad urlare. Delle pene che solo ti sa dare l'amore. E con Bruno Rissas chiudiamo questa puntata dal sapore un po' sapore di sale, un po' vintage, anche con il messaggio di Gennaro che scrive: estate 1976, Viareggio, Rossana era di Lucca, lei conosceva a memoria i balletti di Saturday Night Fever e ballavamo abbracciati per ore e basta, era bellissimo. Grazie a Tiziano Bonini, grazie a Paolino Corleoni, grazie a Miriam Lucchetti e vi do appuntamento ovviamente a domani e comunque per tutte le vacanze di Natale noi siamo in onda puntuali alle 16 con storie nuove e originali ogni giorno. Grazie ancora ad Agostino perché la storia di oggi era la sua e anche lui è un punto rosso su una mappa. Sono Gianluca, la storia di domani è la mia e parlo di due vite che si rincontrano, di un filo che si riallaccia. A 40 anni il puzzle della mia vita è finalmente completato, ho trovato il pezzo mancante, ho cercato e riabbracciato la mia madre biologica. Questa è la mia storia e io sono qui. Franciacorta, un vino, una terra, un'eccellenza italiana. Vi ha presentato Voi siete qui.